i sogni che la morte stia fuori dal smesso di crederci. Ognuno di noi mette un po' a sentire della sicurezza sul trovare passando dagli occhi. Prima piove, decisioni dalle quali non si può ieri possa rimanere esaminare. Decisioni con neve di conseguenze che otterranno la propria rischia a volte. Addirittura la tua vita. Infatti, il fiore d'oria. La mia vita professionale si è diventata ricata, dedicata. E poi la sua interesse, gli occhi, la piano, il sapore di vero. Sono nato nel regno delle persone incomprese, trattate secondo le carte e secondo le spese. Da quando un saluto ha delle care pretese, da quando un gesto comporta delle teste sospese, da quando un giorno un uomo di merda impose che delle persone con la testa ma con le ossa porose avevano intorno la vita come un dovere e non un diritto. Il mio corpo è fermo di fronte al mio animo sconfitto. Finora non ho potuto nemmeno lottare per me contro la mia amata morte, e mi chiedo anche perché tu mi dai il minimo aiuto mentre voglio salvarmi, ma tutti i bastoni tra le ruote. Quando vuoi ammazzarmi ora dico a te, amico, che se davvero vuoi aiutarmi da questa macchina di merda, ti prego di staccarmi, perché non hai capito che se non vuoi tradirmi, più forte che puoi nel cuore devi colpirmi. Che frena le mie parole in un mondo con il sole ma pieno di pistole, che non capisce la distinzione tra bene e male, non capisce che più che bene quello che voglio fare, ma nessuno può ascoltare quello che ho da dire. Non mi resta da fare altra cosa pur di capire che nessuno lì fuori può parlare per me, impotente, che in gabbia nulla può dire ma che tutto sente, e sento che nemmeno le persone vicine a me in vita possono capire e parlare della mia voglia pentita. Siamo soli, ma non pensavo fosse davvero possibile. In testa un concetto facile ma per voi impossibile. Manca solo la denuncia per tentato suicidio, ma manca anche l'accusa per chi commette un omicidio. E non capisco come a voi possa dare fastidio. Padrone della mia vita, non ho trovato altro rimedio. Suona violento e che sento, l'unica mossa giusta qui è la fine del tormento. Voi parlate ma io impotente a rispondere, tra le vostre vive voci non mi posso confondere. Come potete pretendere di vedermi vivo se sono incapace di sapere persino che respiro? Sono vivo ma abituato a facce vecchie, ci manca solo che per stare dritto mi appendete con le mollette. Questa situazione mi ha staccato, il mio spirito è volato tra di voi ma il mio corpo è restato a marcire, a soffrire con parte di me dentro che non vuole morire. E non volete capire che l'amore c'è, se si può provare, percepire, non come Dio che si ama, anche se non si può vedere. E io amo Dio, ma non sarò da lui accettato, perché il dono di una vita maledetta non l'ho rispettato.